in fondo ritorno sempre sugli stessi argomenti, per cui ci sono gradi diversi di approfondimento. I temi sono molti, ma fra di loro talmente collegati che non abbiamo avuto uno svolgimento lineare, per cui chi perde una lezione perde una cosa essenziale che non ritorna. Tutto quanto in qualche modo ritorna ad ogni lezione. Vorrei quasi dire che ad ogni lezione ho ripetuto sempre le stesse cose, fino ad un certo punto, non è proprio vero, ma in un certo senso sì, perché se ci ripenso. Vedo che questo corso è stato come il tentativo di svolgere, sdipannare, tirare fuori un discorso da alcuni concetti, da alcuni nodi concettuali, proprio come il tentativo di sciogliere dei nodi concettuali. Per cui non è uno svolgimento lineare quello che abbiamo fatto, anzi, mi ero proposto di rifare il corso in maniera più lineare, mi rendo conto del fatto che però poi si ritorna sempre su alcuni concetti che sono quelli. Quali concetti? Appunto quello di semiologia dell'economia finanziaria, il significato di economia finanziaria da un punto di vista semiologico, il concetto di segno e di referente, l'idea del denaro come medium. E poi, con un rilievo particolare perché più direttamente legato ad una dimensione disciplinare che è quella della sociologia della comunicazione, il rapporto fra le tecnologie digitali, le tecnologie della rete e il processo di finanziarizzazione. Questo è un po', diciamo, l'argomento che dovrebbe essere il più centrale dal punto di vista della nostra disciplina, insomma, del nostro ambito. In realtà quello è anche un argomento più, non voglio dire banale, ma insomma più facilmente comprensibile. E mentre la ragione per cui invece ritorno continuamente sui nuclei più duri, ma anche se volete meno sociologici, meno direttamente sociologici, è che sono quelli che mi sembrano più, non voglio dire affascinanti, ma quelli più complicati, più nuovi e quindi anche più interessanti da capire. In effetti, se voi seguite, come spero facciate, perché il fatto che il corso affronta questi argomenti dovrebbe anche essere un'occasione, una condizione per che voi vi occupiate un poco di quello che sta accadendo sul piano europeo, o mondiale, ma comunque sul piano finanziario. E se voi avete seguito gli ultimi sviluppi della questione, vedete che le ultime cose che sono accadute sono un vertice del cosiddetto G7, o G8, non mi ricordo più quanti sono, nel quale la presidenza americana, il presidente americano Obama, ha cercato di premere sull'Europa, ma più particolarmente sulla Germania, perché la Germania adotti una posizione meno rigida, sulle questioni dell'austerità, cioè perché si vada verso una politica di crescita piuttosto che una politica di restrizione finanziaria. Obama ha potuto fare questo anche perché dopo le elezioni francesi e dopo le elezioni greche il fronte europeo si sta dividendo. La Germania resta legata all'idea che bisogna assolutamente puntare sulla restrizione finanziaria, che vuole dire, come voi sapete, riduzione della spesa pubblica, riduzione dei salari e così via, e addirittura introduzione del pareggio di bilancio. Pareggio di bilancio vuole dire che gli stati europei debbono rientrare del loro debito e debbono ogni anno spendere per la spesa sociale, per pagare gli stipendi, per tutto, debbono spendere non di più di quello che incassano attraverso l'imposizione fiscale, attraverso le tasse. È una politica che non è mai stata realizzata, cioè non esiste. Il pareggio di bilancio è un'utopia, fino ad ora le spese degli stati sono sempre superiori alle entrate fiscali degli stati, per cui il debito nel passato, nei 30 anni passati, il debito è costantemente cresciuto. Ecco, questo è stato considerato come la norma nella storia della finanza moderna. Non so se voi vi siete mai chiesti cos'è il debito. Io me lo sono chiesto molte volte e ho finito per pensare che il debito fosse una cosa puramente nominale, simbolica. Si sa che gli stati debbono indebitarsi per poter rendere possibile la vita sociale. E allora voi forse ricordate quel brano di Jean Baudrillard che io vi ho mandato, che dovresti avere fra i materiali che io vi ho mandato e che vi ho anche letto, in cui Baudrillard dice, lo ripeto, perché è uno dei riferimenti essenziali di questo mio discorso. Baudrillard dice: sono qua in Times Square a New York e ho davanti agli occhi due orologi, due contatori. Su un contatore si contano i secondi che ci separano dalla fine del secolo, i secondi che ci separano dall'anno 2000. Dimenticavo di dire che Baudrillard scrive questo pezzo nel 1996. Quindi c'è un contatore che calcola quanti minuti mancano allo scadere del secolo. E sotto c'è un altro contatore che calcola la crescita del debito pubblico americano. Americano come quello di ogni altro paese, il debito pubblico cresce continuamente. E allora dice Baudrillard, ma lo chiamiamo debito, ma in realtà nessuno pagherà mai il debito. I debiti non si pagheranno mai, è cosa ovvia, scontata. Perché lui dice il debito è come entrato in orbita, è come se fosse partito in un missile e girasse intorno alla Terra. Immagine molto interessante, no? Un debito che in realtà non è un debito, semplicemente il segnalatore del fatto che gli stati debbono stampare moneta per poter pagare il costo della vita sociale, e che soprattutto perché poi negli ultimi 30 anni, in seguito alla politica neoliberista, come forse voi sapete, una delle cose che hanno fatto gli stati di tutto il mondo è ridurre le tasse dei ricchi, con l'idea che se i ricchi pagano meno tasse investono di più nella produzione, cosa assolutamente falsa, per cui il risultato è che i ricchi pagano meno tasse, punto. E quindi la redistribuzione della ricchezza, che è uno dei principi dello Stato keynesiano, dello Stato del welfare, la redistribuzione è finita, chi ha molti soldi se li tiene e chi ne ha pochi peggio per lui. È una delle cose, forse la cosa più vistosa, più evidente delle politiche neoliberiste che iniziano con gli anni Ottanta e che continuano per i decenni successivi. E dunque, dice Baudrillard, il debito è una cosa virtuale, non esiste come debito reale che qualcuno dovrà pagare. Se il debito cadesse sulla terra, dice Baudrillard, sarebbe la fine di tutto. Ecco, Baudrillard sbagliava, perché il debito è caduto sulla terra, questo è il punto. Cioè la novità degli ultimi 4 anni, naturalmente dicendolo così io semplifico molto, cioè sono successe alcune cose complicate, cioè negli anni 90 e negli anni 2000 la popolazione occidentale ha consumato molto senza avere i soldi per farlo, quindi si è indebitata, l'uso delle carte di credito, soprattutto negli Stati Uniti d'America, ha sostenuto la domanda, ma nessuno, soprattutto le classi popolari, non avevano salari sufficienti per comprare tutte quelle cose, quindi prendevano carte di credito e si indebitavano, sempre partecipando di questa idea che tanto ci indebitiamo tutti e poi nessuno pagherà, perché a chi dovremmo pagare? Chi ci verrà a chiedere di pagare? Le banche, loro sono le prime ad indebitarsi. Ecco, e invece ad un certo punto, a causa di alcuni scompensi, prima di tutto la crisi del mortgage, dei mutui immobiliari nel 2008 in America, voi sapete che all'origine della crisi americana ci sta il fatto che l'economia americana per crescere aveva puntato su l'edilizia, come anche quella spagnola ad esempio, avevano puntato moltissimo sull'edilizia, ha fatto molte case nuove, ma a chi le vendevano queste case, che nessuno aveva i soldi per comprarle? Erano case popolari che nessuno poteva comprare, per cui le banche hanno offerto alla popolazione dei mutui molto vantaggiosi. Per cui ti compravi la casa e pagavi pochissimo, però erano mutui, come si dice, non erano mutui fissi, erano tasso mutui variabile. A tasso variabile. Non sono sicuro che sia il termine. Sì, sì, mutui a tasso variabile. Per cui ad un certo punto ci si è resi conto del fatto che la cosa non poteva stare in piedi, bisognava aumentare i tassi, quindi i tassi hanno cominciato ad aumentare, la gente non ha più potuto pagare il mutuo, quindi molti hanno perso la casa, un'enorme cosa, si parla di 7 milioni di foreclosures, di espulsione dalle case, e il mercato immobiliare si è fermato, le banche si sono accorte di avere incamerato dei debiti che nessuno pagava, e quindi ciascuno aveva puntato sul debito, le banche avevano detto indebitatevi, la popolazione si era indebitata, ma nessuno pensava che poi un giorno qualcuno avrebbe potuto chiedere il pagamento del debito, e di lì è iniziato un processo che non si ferma più, perché poi quel processo ha eccitato una crisi analoga in Europa, dove il problema è piuttosto quello dei debiti sovrani, cioè dei debiti degli stati. Ogni stato si indebita, si pensava che nessuno avrebbe mai posto il problema, e invece il problema si è posto, soprattutto perché le banche, non essendo più loro in grado di pagare i loro debiti, hanno chiesto agli stati di coprire il loro debito, e questo ha fatto saltare l'intero edificio dell'economia occidentale, per il momento l'economia occidentale. Poi il problema si porrà quando i cinesi chiederanno agli americani di pagare il loro debito con la Banca di Cina, perché il debito pubblico americano per 2/3 è depositato nella banca cinese, nella Banca di Cina, e si sa che gli americani non sono in grado, non saranno mai in grado di fare fronte a quel debito, e quindi il problema si proporrà poi anche in Cina. E va bene. Ma insomma, dal nostro punto di vista, cosa c'è di interessante, dal momento che nessuno di noi è un economista, non lo sono io e non lo siete voi? Quello che è interessante, ed è il punto su cui sto, come vedete, girando, tessendo la mia tela concettuale, e il punto interessante è che tutto questo noi lo potremmo leggere in termini semiologici. E allora, cos'è il debito? Questa è una delle grandi questioni che si stanno ponendo oggi dei teorici, dei filosofi, sia economisti che filosofi, che antropologi. Cos'è il debito? Allora, io vi ho consigliato in particolare due libri, forse di più, ma due di sicuro. Uno è quello di Maurizio Lazzarato, che si chiama La fabbrica dell'uomo indebitato, e l'altro è di David Graeber, però David Graeber vi ho mandato l'introduzione in inglese, non so se tutti l'hanno potuta leggere. Io vorrei riuscire prima della fine di giugno, cioè nel mese di giugno, vorrei riuscire a scrivere poco, 3 paginette, per sintetizzare la bibliografia. Voi vi potete leggere uno di questi libri, Lazzarato, lo potete leggere, e spero che qualcuno lo stia già facendo, che lo abbia Come almeno si chiama comprato. Lazzarato? Maurizio Lazzarato, La fabbrica dell'uomo indebitato, ma te l'ho mandato, sai, la bibliografia te l'ho mandata subito. E cosa dicono questi signori che si stanno occupando del debito? Stanno cercando di capire cos'è il debito. David Graeber è un antropologo e lui dice essenzialmente, il suo libro si chiama Debito, Debt, i primi 5.000 anni, i primi 5.000 anni della storia del debito. E lui racconta un po' da antropologo la storia del debito nelle culture antiche, medievali, nelle culture extraeuropee. E alla fine dice, ma in fondo il debito è essenzialmente una promessa, un rituale che rende possibile la creazione di un legame all'interno della società, per cui io ti do qualcosa, tu me la dovrai restituire, se non me la puoi restituire diventerai mio schiavo in alcune società. Questo accade. Oggi più o meno sta succedendo la stessa cosa, eh. Chi non è in grado di restituire il debito diventerà schiavo di chi glielo ha. Ma insomma, nell'antichità la cosa era molto, molto diretta, molto personale. Ma in che modo ora diventa schiavo? Oggi, beh, per esempio, la Grecia non è in grado di pagare il debito e diventa lo stato paria, lo stato al quale nessuno farà più debito, quindi se vogliono avere qualsiasi cosa sono costretti ad accettare qualsiasi condizione di lavoro, cioè vieni messo in una condizione in cui non puoi più avere niente se non paghi il massimo, diciamo così. Ecco, quindi Graeber essenzialmente dice: il debito è una promessa, e molti hanno fatto la promessa pagherò negli ultimi tempi. Quando questa promessa, che è sempre rimasta lì sospesa, come dice Baudrillard ha notato nel 96 che la sola promessa cresce, ma rimane sempre sospesa, e lui è tranquillo, dice: tanto è chiaro che il debito è diventato una formula puramente linguistica, rituale se vogliamo, ma nessuno pagherà mai il debito, errore. Ma David Graeber dice: allora, quando nel settembre del 2008, in seguito alla crisi dei mutui immobiliari, il debito è diventato concreto, qualcuno ha richiesto il pagamento del debito, gli stati si sono trovati di fronte a un'alternativa: mantengo la promessa che ho fatto alle banche di pagare il loro debito, o mantengo, poniamo, la promessa che ho fatto ai lavoratori di pagargli la pensione? Possiamo metterla anche così, se vogliamo, l'alternativa, no? E lo Stato tedesco, per esempio, e adesso tutti gli Stati europei, ha detto: no, noi manteniamo la promessa che abbiamo fatto alle banche, dei lavoratori ce ne frega niente, quelli non vanno più in pensione, quelli non avranno più lavoro, quelli non avranno più salario, quelli gli taglieremo del 40% i salari, 25% in Grecia, 25% e così, e quelli, capite? Diciamo che per Graeber il problema può essere trasferito, tradotto in termini linguistici, nel senso che noi possiamo interpretare il debito come un atto di linguaggio nel quale qualcuno promette qualcosa a qualcun altro, e Graeber dice: però ogni atto di linguaggio si può risolvere con un altro atto di linguaggio. Nel momento in cui questo diventa l'ostacolo per la vita economica e sociale di gran parte del mondo, occorrerebbe avere il coraggio di un atto che sciolga quella promessa. Ecco, questo evidentemente non è così facile, perché molti dei creditori non hanno nessuna intenzione di rinunciare al loro credito, ad esempio la Germania. Poi bisognerebbe entrare nel merito di come questo credito è stato utilizzato, chi si è avvantaggiato in questo meccanismo di indebitamento. La Germania, per esempio, negli ultimi 20 anni ha prestato denaro alla Grecia, per esempio, e la Grecia ha comprato per gran parte prodotti tedeschi. Gran parte di questi prodotti sono armi, sistemi d'arma costosissimi, di cui la Grecia a questo punto non sa cosa farsene. La Germania ha prestato soldi alla Grecia, la Grecia ha restituito questi soldi per comprare delle armi inutili, ma a questo punto devi restituirmi il debito. Ecco, Graeber dunque interpreta il debito dal punto di vista della relazione linguistica. Maurizio Lazzarato, nel suo libro La fabbrica dell'uomo indebitato, che è anche un libro abbastanza facile, che io vi consiglio di leggere. Volendo lo possiamo ordinare per l'IPS. Non ho capito, volendo? Lo si può ordinare su IPS. Si può ordinare come? Su IPS, un sito che vende libri. Ah. Non ci sarà su tutti, no? Ci sarà? No, nel senso credo. È perché è raro? Cioè, no, no, è uscito da pochissimo, è uscito da 2 mesi. Quando ve l'ho citato la prima volta, io l'avevo appena, cioè era appena uscito. E credo che costi 12 euro. Ha scritto nome qualcosa? Sì. 9,60 con uno sconto. Sì, quindi insomma, è una spesa che si può fare, almeno uno ogni 3 lo compra e poi lo fa girare. Io lo so, per l'esame dobbiamo leggere uno di questi libri. Sì, per l'esame. Il libro che consiglio è quello lì, essenzialmente, però se uno viene e mi propone di parlare del libro di Baudrillard, va bene lo stesso, Cioè, l'importante all'esame, quello che la base della discussione non sarà il corso. Questo l'ho detto fin dall'inizio, ve lo ripeto, non pretendo da nessuno che sia in grado di riprodurre la successione di suoni senza senso che io sto emettendo da qualche tempo. E questo corso va considerato, lo ripeto per chi non l'avesse già sentito, come una specie di esplorazione di un territorio che non conosciamo. Quindi non posso pretendere che voi rifacciate la performance sconsiderata che sto facendo io. Questo lavoro non è inutile, intendiamoci bene, perché una serie di cose spero che rimangano lì, una serie di concetti, una serie di riferimenti, però non è propriamente un discorso lineare, mentre i testi che vi ho proposto, che sono tanti, perché oltre Baudrillard, Lazzarato, Graeber, ve ne ho proposti degli altri, McLuhan, uno sceglie il libro che gli pare e parla di quello. Ciascuno di quei libri, in una maniera o nell'altra, statene certi, può essere riferito alle tematiche di cui stiamo parlando, però da punti di vista molto diversi. McLuhan parla delle tecnologie di comunicazione negli anni 60, Baudrillard parla di tante cose che non le sto neanche a dire, e Graeber e Lazzarato parlano del debito, eccetera, eccetera. Insomma, un libro tra quelli che vi ho consigliato è sufficiente per l'esame. Naturalmente poi, se vorremmo, chiacchiereremo oltre che del libro, del modo in cui ciascuno di questi libri si ricollega alle cose di cui stiamo parlando. Torno al punto. Cosa dice Maurizio Lazzarato nella fabbrica dell'uomo indebitato? Lui dice: il sistema capitalistico ha sempre avuto bisogno di controllare in qualche modo, di costringere in un certo senso le persone, quelli che un tempo chiamavamo i proletari, cioè coloro che non hanno nulla, che non hanno proprietà, costringerli ad accettare il lavoro e ad accettare condizioni di lavoro che vengono decise unilateralmente dal capitale. Ma come si fa? Ecco, nel tempo ci sono state una serie di tecniche sociali che costringono la gente ad accettare ad accettare qualsiasi condizione di lavoro. Possiamo cominciare fino dall'inizio della storia dell'industria moderna. Nell'Inghilterra del tardo Medioevo, la gente viveva per gran parte nelle campagne e ciascuno cercava di cavarsela attraverso la coltivazione di un pezzo di terra, ecco. Sia in condizioni di libertà che in condizioni di servitù della gleba, però ciascuno viveva del rapporto con la terra. A un certo punto i landlords, i padroni delle terre, fecero un atto legale che si chiama enclosures, recinzioni in italiano, cioè recintarono la grande parte della terra coltivata per privatizzarla, primo atto di privatizzazione, e cacciarono tutti coloro che vivevano su quella terra e che mangiavano quello che potevano coltivare su quel terreno. In questo modo la popolazione viene costretta a concentrarsi nei centri urbani e viene costretta ad accettare le condizioni di lavoro che l'industria allora nascente stava offrendo. In qualche modo si può dire che la storia del capitalismo implica sempre un impoverimento iniziale, cioè la gente deve essere messa in condizione di miseria totale per poi accettare lo sfruttamento industriale. Così si mette in moto il processo di industrializzazione, il processo di crescita, il processo di formazione del sistema del lavoro salariato. Cosa vuole dire lavoro salariato? Un lavoro che uno non fa perché gli fa piacere o perché crede che sia utile, lo fa solo perché altrimenti muore di fame, ha bisogno di un salario e dunque accetta qualsiasi cosa. Ecco, se questo è l'atto iniziale del processo di industrializzazione, nel corso della storia dell'industria le forme di controllo, di ricatto sono state molteplici, fino a quando a metà del Novecento il movimento operaio, la democrazia, le trasformazioni politiche, sociali che si sono verificate nel corso del XX secolo creano quello che chiamiamo stato del benessere, welfare state, cioè una condizione in cui i lavoratori riescono a garantirsi, grazie al loro lavoro, non grazie a una donazione divina, riescono a garantirsi delle condizioni di relativa sicurezza, per cui non possono essere licenziati, per cui dopo aver lavorato 30 anni avranno diritto alla pensione, per cui se si ammalano hanno messo da parte i soldi per pagarsi le medicine e così via. Questo welfare state, stato del benessere, capirai che benessere è semplicemente la garanzia che non morirai di fame se sei in grado di avere un lavoro. Se non hai un lavoro muori di fame e zitto. Ecco, questo ha tenuto, questo modello che chiamiamo welfare state, ha sorretto la vita sociale a partire, diciamo, dagli anni 50. Le prime forme di previdenza in realtà vengono sperimentate già alla fine dell'Ottocento in Germania, quando Ottone di Bismarck, che era il cancelliere tedesco negli ultimi 20 anni del secolo, 30 anni del secolo, e Bismarck capì che l'economia industriale doveva garantire delle condizioni di sopravvivenza minime ai lavoratori, anche perché in Germania stava crescendo un forte movimento socialista, e concesse la pensione. Il primo Stato che istituisce la pensione, la Germania di Bismarck, e alcune altre garanzie. Poi nel Novecento, dopo la rivoluzione sovietica, dopo la diffusione del movimento comunista in tutto il mondo, gli operai divennero talmente forti sul piano politico che si dovette giungere ad un accordo con loro, e questo accordo venne fondato per l'appunto su un certo numero di garanzie che definiscono lo stato del welfare. E questo modello regge dagli anni 50 fino agli anni 80. Poi dagli anni 80 comincia ad essere criticato, attaccato, ridotto, sgretolato, prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti e poi poco alla volta in tutto il mondo, fino al punto che negli ultimi 10 anni praticamente lo stato del welfare è in linea generale in fase di disgregazione, ed entriamo in quella che possiamo definire l'età della precarizzazione. Precarizzazione cosa vuole dire? Precario è una parola che viene da precari, che in latino vuole dire pregare. Dunque il precario è colui che prega, se vuole sopravvivere deve pregare ogni giorno un santo che gli paghi da mangiare. Questa è l'origine della parola precarietà, condizione nella quale se vuoi sopravvivere devi pregare. E entriamo nella condizione di precarizzazione sempre più diffusa della vita dei lavoratori. Il processo si sta svolgendo, ma il capitale si rende conto del fatto che ci deve essere, in una condizione di crescente immiserimento, ci deve essere un modo per legare la gente, per costringere la gente ad accettare il lavoro dipendente, anche se è un lavoro dipendente così non garantito come quello che tende a diventare prevalente. E a questo scopo usa, dagli anni 90 in poi, usa l'indebitamento. Questa è la tesi essenziale di Maurizio Lazzarato nel libro La fabbrica dell'uomo indebitato. L'indebitamento è al tempo stesso un modo per far crescere la domanda e quindi per vendere delle merci, e dall'altra parte un modo per legare la gente alla dipendenza. Pensiamo ad esempio a una forma di indebitamento molto recente che in Italia ancora non ha preso molto piede e che invece ha una storia ormai abbastanza lunga negli Stati Uniti: l'indebitamento degli studenti. Voi sapete che negli Stati Uniti, siccome la scuola è prevalentemente privata e anche le scuole pubbliche negli ultimi 10-15 anni hanno cominciato ad aumentare il costo delle tasse di iscrizione, si arriva al punto che per poter seguire un corso di studi che ti dia un titolo di studi sufficiente per entrare nel mercato del lavoro negli anni 90 o negli anni 2000, perché oggi non serve neanche più per quello, ma comunque in questi passati 20 anni, se volevi un titolo di studio che ti permettesse di avere un posto di lavoro, dovevi investire una somma che poteva andare dai 50.000 ai 200.000 dollari a seconda della scuola nella quale entravi. Le famiglie di conseguenza si indebitavano per questo. Ad un certo punto le banche hanno istituito una forma di per sollevare le famiglie da questa spesa, hanno offerto agli studenti la possibilità di indebitarsi direttamente con la banca, di pagarsi gli studi, con la garanzia del fatto che una volta concluso il ciclo di studi, una volta laureati, quello che è, avrebbero immediatamente cominciato a restituire il debito. Qual è il risultato di questo? C'è un bellissimo libro di una ragazza, di una giovane scrittrice americana che si chiama Anya Kamenetz. Il titolo del libro è Debt Generation, non è tradotto in italiano che io sappia, generazione debito, e lei descrive proprio la vita di un certo numero di suoi amici. Lei ha 28 anni, è una che ha appena finito, si è appena laureata e sta vivendo questa condizione sulla sua pelle, ma soprattutto descrive la situazione di molti suoi amici. Cosa succede? Che tu esci dall'università, sei appena laureato e a quel punto devi accettare qualsiasi cosa. Ti viene proposto un contratto di lavoro nel quale sei pagato male, devi lavorare 7 giorni alla settimana, accettare i turni di notte, condizioni di assoluta precarietà, devi pagare il debito, quindi non hai la possibilità di scegliere, di contrattare. Ecco che le condizioni sociali vengono totalmente asservite all'interesse del grande capitale, poi per dirla in modo rapido. In questo periodo, negli ultimi mesi, negli Stati Uniti è nato un movimento, in seguito a Occupy Wall Street, è nato un movimento che è proprio un movimento contro l'indebitamento studentesco. Cioè ci si sta organizzando per poter non pagare il debito contratto nei confronti delle banche, con le conseguenze che questo comporta naturalmente. Ecco, dunque Lazzarato ragiona soprattutto sulla questione della funzione che il debito svolge in questi termini, da questo punto di vista. Lazzarato ragiona anche su una questione a cui, se vi ricordate, io ho già accennato in riprese, che è una questione di tipo antropologico, storico, è la questione delle implicazioni simboliche del debito. Cos'è un debito? Abbiamo detto, è un atto di linguaggio sulla base del quale io mi impegno a piccola nota: in alcune lingue, ad esempio nell'aramaico, che è la lingua di Gesù Cristo, ma anche nel tedesco, che è la lingua di Angela Merkel, e anche di Hitler, ma non, questo non lo volevo dire, e la parola debito si dice con un suono che, insomma, la parola debito è sinonimo della parola colpa, schuld, mi pare, schulding, significa sia debito che colpa. È un interessante segnalatore di qualcosa che ha un significato molto profondo. Essere in debito significa essere in colpa. Ce lo dice prima di tutto, in fondo, la lezione profonda della religione cristiana. Dal momento in cui noi entriamo nello stato di colpa originaria, quella che è provocata dalla decisione di Eva di mangiare la famosa mela, ricordo a tutti, perché magari qualcuno non è informato, che nella cultura occidentale, nella cultura cristiana, c'è una specie di mito fondativo che riguarda l'origine dei tempi. Dio in 7 giorni fa il mondo, costruisce l'intero mondo. Il 7° giorno fa l'ultima delle sue opere, che è l'uomo, l'essere umano. L'uomo si chiama Adamo, e però non basta da solo. A Dio sembra che occorra, gli manchi qualcosa. E allora, con una procedura che non sto a raccontare, perché insomma, crea anche la donna. Cioè l'uomo e la donna siamo a posto. E l'uomo e la donna vivono in un mondo perfetto, che si chiama Eden, paradiso, il paradiso terrestre. Però Dio, dopo aver fatto l'uomo e la donna e anche tutto il resto, dice anche all'uomo e alla donna: fate quello che vi pare, ma non mangiate quella mela. C'è un albero con una mela e quella mela non si deve assolutamente mangiare, perché non è mai stato tanto bene chiarito. In realtà è chiarissimo il perché, perché quella mela, che probabilmente è un potentissimo allucinogeno, è la condizione del desiderio, diciamo, della inquietudine che porta gli esseri umani a non essere mai contenti, a volere sempre qualcosa di più, cioè a conoscere, perché poi la conoscenza, in fondo, questo è uno stimolo, una inquietudine che consiste nel voler avere ciò che non hai ancora, la conoscenza di ciò che non hai ancora conosciuto, che questa conoscenza poi sia scientifica, carnale o estetica, sono aspetti diversi della stessa questione, una inquietudine creativa che possiamo chiamare anche desiderio. Quindi Dio dice: se volete stare tranquilli, non mangiate quella mela. E compare un serpente, e il serpente si rivolge alla donna e gli dice: mangiala, la mela è buonissima, altro che storie. E effettivamente Eva mangia la mela, la fa mangiare anche ad Adamo, e di lì inizia tutto questo tormentone nel quale siamo coinvolti. Cos'è questo tormentone? È il fatto che noi abbiamo... noi, veramente noi non avremmo... forse io non l'avrei mangiata, se sapevo che andava a finire così. Insomma, gli esseri umani commettono una colpa, perché contravvengono all'ordine divino e in questo modo contraggono una specie di debito eterno, perché quella condizione nella quale gli esseri umani si pongono in quel momento è una condizione di colpa, sì, ma anche di debito. Tant'è vero che Dio, quando sa che Eva e Adamo hanno mangiato la mela, corre e li caccia dicendo: lavorerai con sudore e partorirai con dolore, che è come dire pagherai il debito. Il lavoro in fondo è anche quel lavoro particolare che è la riproduzione, è un pagamento di un debito infinito, di un debito che non finirà mai. Poi arriva Cristo sulla terra e lì non si è ben capito, scusa, ha pagato il debito, perché dobbiamo continuare? Ma insomma viene ad annunciare il fatto che il debito si può estinguere a patto di vivere secondo principi dell'amore. Ma lasciamo perdere che la cosa si Insomma, il punto è questo, che la colpa originaria è anche l'inizio di un indebitamento eterno che accompagna la storia umana. Però il modo in cui noi viviamo la colpa e il modo in cui noi paghiamo o non paghiamo il debito, però sai, non pagare il debito è un bel problema, non solo perché vengono gli esattori, ti sequestrano quello che hai in casa, possono accadere tante cose a non pagare il debito, ma soprattutto per il fatto che vivi in questa condizione di colpevolezza che ti mette in conflitto con te stesso. Diciamo, l'identificazione simbolica del debito e della colpa ha proprio questa funzione, quella di farti sentire colpevole di qualcosa che dovresti fare e non stai facendo. Forse qualcuno di voi sa che gli antropologi dicono che la civiltà occidentale, giudea e cristiana, quella ebraica, quella cristiana e poi l'Occidente che discende, è fondata sul senso di colpa, mentre la civiltà orientale, quella cinese in particolare, sarebbe fondata sul senso della vergogna, del sentimento di una esposizione. Ma questi sono argomenti che adesso ci interesserebbero se parlassimo di antropologia. Questo non è diciamo uno degli aspetti che in qualche misura differenziano la cultura e la psicologia occidentale da quelle orientali, ma a noi qui adesso interessa approfondire la questione del debito. Nell'ambito della cristianità, come abbiamo già detto, come avevo già cercato di raccontarvi, gli atteggiamenti nei confronti della colpa si evolvono nel corso del tempo e la separazione fondamentale, lo scisma fondamentale che si verifica nel mondo cristiano a partire dalla decisione di Martin Lutero di rompere la cristianità, di protestare contro Roma, cioè la fondazione del movimento protestante che inizia nel 1517, ha proprio molto a che fare con il problema della colpa e del debito. Perché qual è la differenza fra cattolici e protestanti su questo punto? Il cattolicesimo, la cultura cattolica, è fondata su un sentimento molto forte della comunità e un sentimento piuttosto debole dell'individualità. Il cattolico si sente parte di una famiglia e la famiglia lo protegge, è la famiglia che condivide il debito. Quindi se io non posso pagare, pagherà mio cugino, pagherà mio nipote, pagherà mio nonno, ma insomma il cattolico si sente fortemente parte di una comunità che lo copre e lo protegge. La riforma protestante è fondata essenzialmente su una affermazione fortissima della responsabilità individuale. Dal 1517 in poi, dal momento in cui Lutero rompe con Roma, si verifica un fatto nuovo, cioè che i cristiani non hanno più bisogno della Chiesa. I protestanti non hanno una Chiesa, sì, hanno anche delle chiese, ma non c'è la rappresentanza di Dio sulla terra che sta a Roma. Quella non conta più niente per i protestanti. Il protestante può avere accesso alla parola divina, alla Bibbia, al libro, direttamente, perché c'è la stampa che permette di stampare molte copie del Vangelo e della Bibbia, e perché il borghese moderno è in grado di leggere, cosa che il contadino medievale non sapeva fare. E quindi il protestantesimo, che è espressione religiosa della borghesia moderna, il protestantesimo afferma un principio di responsabilità individuale. Il cristiano è individualmente responsabile della sua colpa e deve individualmente pagare il suo debito. Ecco perché in uno dei tanti libri che ho citato, e che se volete potete leggere e portare all'esame, ecco perché Max Weber, in un libro che si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, ecco perché Max Weber in quel libro dice: la forma protestante è quella migliore per la formazione del capitalismo borghese. Perché? Perché ogni individuo sa di essere personalmente responsabile della sua colpa e del suo debito. E dunque per pagare il debito lavorerai con sudore, come il Signore Dio ci disse all'inizio, e individualmente cercherai di pagare il tuo debito e di renderti presentabile agli occhi di Dio. Ecco che il protestantesimo diventa la cultura della borghesia imprenditrice, della borghesia attiva sul piano industriale, e quindi anche la cultura della modernità e del capitalismo. Mentre, come sappiamo, la cultura cattolica rimane in qualche modo un po' impermeabile allo sviluppo capitalistico, o rimane ai margini. Quali sono i paesi che trascinano lo sviluppo industriale tra il 1700 e il 1900? L'Inghilterra, paese protestante, la Germania, paese protestante, l'Olanda e i paesi fiamminghi, protestanti, gli Stati Uniti d'America, largamente protestanti. E quali sono invece i paesi, rimanendo nell'ambito dell'Occidente naturalmente, dell'Europa, quali sono i paesi più lenti, più arretrati sul piano economico e sul piano dell'innovazione sociale? Paesi latini, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, il Sud America, il Messico, paesi cattolici. Lasciamo da parte i paesi ortodossi, lì sarebbe interessante un discorso sulla Grecia, sulla Bulgaria, la Romania, la Serbia, la Russia, cioè sul mondo ortodosso, ma lì le cose si complicano ulteriormente. Ecco, dunque, la storia della modernità occidentale è storia dello sviluppo della borghesia capitalistica, è animata da una cultura di tipo individualista, responsabile, protestante, in ultima analisi, mentre la arretratezza del mondo cattolico è legata piuttosto ad una visione, ad un sentimento di tipo comunitario. Parlando di questo argomento, qualche tempo fa, voi ricordate forse che io ho cercato anche di vedere le implicazioni estetiche delle due diverse culture. La cultura protestante, proprio perché è cultura della responsabilità e della laboriosità, è una cultura della essenzialità, possiamo chiamarla una cultura della severità gotica, è una cultura aniconica, quella protestante, una cultura in cui non conta l'immagine, conta la parola di Dio, la parola del banchiere, la parola della promessa, mentre la cultura latina, cattolica, è in una cultura che dà una importanza molto rilevante all'immagine, all'inessenziale, a ciò che è ambiguo. La parola è quella, pagherò, mentre l'immagine è un'allusione, un gioco di specchi, è il barocco, ecco il gotico, è la figura, è lo stile, il modo di essere, della responsabilità e della severità protestante, mentre il barocco è lo stile della ricchezza ornamentale, ma anche della ambiguità, della indefinitezza delle culture cattoliche che accompagnano, ma sempre in una posizione minore, subalterna, accompagnano la storia della modernità. Ecco, che ruolo gioca il debito in questa faccenda? Beh, è evidente, basta guardare la carta geografica dell'oggi in Europa. Quali sono i paesi che rivendicano il pagamento del debito? La Germania, l'Olanda, la Finlandia, i paesi protestanti. E quali sono i paesi che non riescono a pagare il debito? L'Italia, la Spagna, il Portogallo, paesi cattolici. La Grecia poi è invece il mondo ortodosso, quindi una cultura ancora più marginale, diciamo così, rispetto alla responsabilità e all'individualismo. Perché questo dice? Cioè, scusa? In che cosa si caratterizza invece la scelta ortodossa? L'ortodosso, la variabile ortodossa, guarda, naturalmente ti dico delle cose che sono per gran parte... No, beh, non è che non sono fantasie mie, no, però certo, sono elaborazioni sulle quali ricavo soprattutto da una letteratura di tipo estetico o artistico. Io direi che l'ortodossia, tu sai qual è l'elemento essenziale della distinzione teologica fra religione ortodossa e religione cattolica? Beh, la protestante. Questione della Trinità, no? Sì, e del carattere dell'umanità di Cristo. Sì. Mentre per i cattolici Cristo è umano. Sì, certo. Per l'ortodossia quella è una bestemmia. Il figlio si incarna. L'incarnazione è riuscita. la transustanziazione. Ecco, l'ortodossia è una cultura basata su una affermazione di assoluta separazione fra la dimensione religiosa e la dimensione terrena. Chi intenda essere puro dal punto di vista, cioè imitare la divinità di Cristo, la integrale divinità di Cristo, non può mescolarsi con le cose di questo mondo. E dunque una rivendicazione di assoluta estraneità rispetto alla mondanità, e in particolare all'economia. E quindi un rifiuto molto più radicale che si manifesta in molte maniere. E, per esempio, si manifesta o nel sul piano artistico. Che cos'è? Qual è la differenza fra l'icona e la rappresentazione post-rinascimentale? L'icona è un codice. La purezza. L'icona è la purezza, mentre il rinascimento, l'umanesimo rinascimentale dell'arte raffigurativa e l'idea stessa della prospettiva, ad esempio, implica una contaminazione dell'arte, dell'atto artistico con la modalità, col reale. L'arte rinascimentale intende essere integralmente mondana, fino al punto da introdurre una carnalità raffigurativa che talvolta è peccaminosa, ma che ci permette di mettere in una relazione sempre più stretta la dimensione religiosa e la dimensione mondana. L'iconismo ortodosso rifiuta questa contaminazione, perché considera l'icona non come una raffigurazione del mondano, ma come una codificazione dello spirituale. È un codice che ci permette di comprendere ciò che non appartiene al mondo, ma appartiene unicamente alla sfera divina. Ora, le forme che l'ortodossia assume poi possono essere molto diverse. Io, ad esempio, penso che il leninismo sia uno degli aspetti, una forma di ortodossia. Cioè Rosler ne scrive, se ne ha sempre scritto, come una dinamica bizantina, paradossalmente. Sì, cioè, in alcuni testi, in alcuni articoli dell'epoca ne parlava proprio come si trattasse di una religione. Sì, sì, ma il partito, Lenin parla del partito in questi termini. Il partito non è la classe operaia. Asprare la carne. Il partito è un gruppo di professionisti della rivoluzione che sono puri, devono essere la purezza del partito, il partito non si deve contaminare, quello lo fa il sindacato. Il partito bolscevico è esterno rispetto al movimento reale e quindi c'è un elemento di radicalismo, di purismo nella stessa concezione politica che fonda poi il comunismo sovietico. Vabbè, ma tutto questo. Chiedevo perché non accennavo. No, è... prego. Mentre invece, dato che non è stata citata finora. Non ho capito. Che non è stata citata la Francia invece. La Francia. Francia è un caso abbastanza interessante perché hai la Francia è divisa perfettamente in due. Perfettamente divisa in due, la popolazione protestante e la popolazione cattolica praticamente si equivalgono. Nel sud hai una prevalenza cattolica, nel centro e nel nord una prevalenza protestante. E la Francia, difatti, è un paese che partecipa sia delle caratteristiche del mondo latino, sia delle caratteristiche del mondo germanico protestante. Adesso io non voglio vendere questo modello come se fosse per chiunque, cioè nessuno lo dice perché sembra poco politically correct, non si può parlare di argomenti religiosi mentre si sta parlando della Banca Centrale Europea, ma questa è un'ipocrisia assoluta, perché se posso permettere una piccola nota storica, io sono convinto del fatto che l'Unione Europea, che è un esperimento politico straordinario, noi non dobbiamo dimenticare che la unificazione d'Europa è il tentativo di uscire da due secoli di guerra, è un tentativo di sperimentare una forma pacifica di esistenza di un continente che è sempre stato in guerra. E fino ad ora ha funzionato, per 60 anni praticamente, e, con la notevole eccezione della Jugoslavia. E, l'Europa viene costruita originariamente come un progetto economico, con la promessa di mettere in moto poi un processo di vera unificazione politica, che non è mai avvenuto, perché l'Europa ha un Parlamento, ma è finto, non conta niente, non può decidere nulla, perché l'unico organo che può decidere è la Banca Centrale Europea, è la Commissione che dipende strettamente dalle decisioni della Banca. E per statuto la Banca non risponde al Parlamento, e quindi il Parlamento che ci sta a fare se non può dare ordini alla Banca? Per cui nasce un organo unificato sul piano economico senza testa politica, ma contemporaneamente questo può cambiare, nel senso che non ci si sta, sai, è un po' tardi, però adesso sì, certo che può cambiare, tutti lo dicono, cioè, che ci sono tentativi appunto per al momento mi parli di no. Ti risulta che si stia parlando di questo? A me non risulta, a me risulta che si parla di economia. Nessuno dice, beh, qui adesso bisogna fare una cosa urgentemente, dare poteri al Parlamento europeo. Però questo vorrebbe dire che, siccome il Parlamento spesso ha una maggioranza di sinistra, allora la Banca Centrale dovrebbe modificare qualcosa delle sue regole che sono rigorosamente neoliberiste. E il paradosso d'Europa è che hai un ceto politico che ma è in buona... chi ha il potere di decidere che la banca, tra virgolette, si confronti con il Parlamento europeo? Mi hai chiesto chi ha il potere di deciderlo? Certo. Praticamente nessuno, perché il tentativo di formulare una Costituzione europea è fallito, come ti ricorderai, nel 2005 venne formulato un trattato, una Costituzione, che peraltro era ancora molto timida su questo punto, e quella Costituzione venne respinta con un referendum in Francia e in Olanda, e quindi non c'è una Costituzione europea. L'unica Costituzione europea è il Trattato di Maastricht, che però è economico, non politico, non riguarda... Giustamente tu dici, ma allora chi può decidere? È una domanda a cui non c'è risposta, non lo sappiamo chi può decidere, ed è una delle ragioni per cui molti dicono l'Europa non ce la può fare, non ne verrà fuori, e difatti si può attendere il collasso economico definitivo per poter poi finalmente porre quel problema, nel senso di una visione catastrofica questa. Io ho una visione catastrofica, lo ammetto, cioè non vedo una via d'uscita da questa situazione. Cioè l'Unione Europea come tale, come tentativo, è destinato comunque a un fallimento certo in questo senso? Credo di sì, sì. Io prevedo che il fallimento sia inevitabile, non c'è. Cioè l'unica possibilità di evitare il fallimento è far pagare alle popolazioni europee un prezzo talmente alto che la guerra civile si diffonderà in ogni luogo. Cioè o finisce l'Europa o scoppia la guerra civile. Non riesco a vedere un'altra prospettiva. La fine dell'Europa implicherebbe cosa? La guerra civile. No. Comunque. Sì. Nel senso che non è che ci si dice, beh, si è provato, ragazzi, la partita è finita. Beh, sai, a casa, cioè, c'è invece il rischio di forti nazionali chiusi. Non ho capito. C'è invece il rischio di forti nazionali chiusi, ancora la paura nazionale. Che vuole dire guerra civile? Cioè l'emergere di forti nazionalismi coincide con un riesplodere della guerra civile europea sospesa nel 1945. Però in effetti ma sempre... suonerà impopolare, però il nazionalismo è chiaramente l'unica soluzione per i singoli stati per sollevarsi dalla crisi. Cioè com'è che io posso, com'è che i greci possono risollevarsi dalla crisi? Decidendo di non pagare il debito che hanno contratto, decidendo di fermare diciamo, la compravendita di questo mette in moto un processo che porta alla guerra civile. Cioè, perché invece devono acquistare le armi per dire dai. No, ma io sono perfettamente d'accordo. Hanno ragione, cioè se si alzano la mattina loro inno nazionale rompono le scatole, è bruttissimo, so che cosa significa, però hanno ragione, ma così l'Italia dovrebbe fare. Sì, ma questo mette in moto un processo che porta alla guerra civile. Perché il debito, perché le banche tedesche, francesi e inglesi chiederanno la restituzione del debito, perché questo rimetterà in moto delle tensioni sia all'interno dei diversi paesi che fra i diversi paesi l'uno contro l'altro. Però è vero che gli stati che ci impongono sostanzialmente il debito sono stati fortemente nazionali, cioè per quanto, come dire, apparentemente democratici o comunque assolutamente non nazionalisti, i tedeschi, i francesi, gli olandesi, i belga, cioè sono tutti stati profondamente nazionalisti. Sul piano economico certamente. Non mi devi convincere del fatto che faremo meglio a non pagare gli stati nazionalisti, fortemente nazionalisti. Diciamo il nazionalismo è in sonno. Non è mai stato realmente sradicato. E proprio questo stavo cercando di dire, forse uno sradicamento profondo del nazionalismo dipende da uno, da una scelta politica che l'Europa non ha mai fatto, ma due, più profondamente da una rimessa in questione delle differenze culturali interne all'Europa, ad esempio l'eredità del protestantesimo e l'eredità del cattolicesimo. Ecco, cioè fino a quando non siamo in grado di riconoscere che per 500 anni l'Europa ha vissuto con diversità culturali, etiche, estetiche profondissime che non devono mica essere eliminate, ma conosciute, capite, elaborate. Questo non c'è stata una ridefinizione dell'equilibrio culturale d'Europa, che d'altra parte è poi la condizione per arrivare ad un riequilibrio politico dell'Europa stessa. Quindi tutto ad un tratto ci troviamo di fronte a tedeschi, spagnoli e greci che parlano tre lingue del tutto differenti. I tedeschi si scandalizzano perché i latini non sono solleciti nel pagamento del debito. I latini si scandalizzano perché i tedeschi hanno questa pretesa di un rigore che non appartiene alla cultura cattolica. Gli ortodossi, per parte loro, rifiutano il fatto stesso che la loro identità nazionale venga insultata e violata. Ecco, quindi, diciamo, qui non c'è nessuno che ha ragione, nessuno che ha torto. Non è questo il punto, sarebbe idiota dire che i tedeschi sono cattivi. Cioè, appunto, il pericolo è proprio questo. Di rimettere in moto una dinamica che è in moto, perché in Grecia ci sono le manifestazioni che bruciano la bandiera europea, ci sono quelli che vanno a picchiare i pakistani perché sarebbero loro i colpevoli della crisi, ci sono quelli che fanno le manifestazioni contro la Merkel, quindi ormai la dinamica è messa in moto. Ma siccome noi qui non possiamo rimediare ai disastri d'Europa, ci limitiamo a cercare di capirli, e il mio modo di capirlo è questo: ricostruire la storia culturale, religiosa, perfino la storia estetica. E c'è una questione relativa alla sensibilità, anzi alle sensibilità. E dunque quando io dico il gotico ed il barocco, mi riferisco proprio a due forme di sensibilità che riguardano l'estetica, diciamo l'architettura nordica in contrapposizione all'architettura latina, sia latino europea che latino americana, ma oltre all'architettura, alle arti figurative o alla letteratura, possiamo parlare anche degli stili etici del mondo latino e del mondo dell'Europa del Nord. Ecco, quindi questo è in qualche modo una descrizione delle implicazioni antropologiche, in un senso molto vasto, antropologiche, quindi etiche, estetiche, che caratterizzano la realtà europea. Ma torniamo alla questione del debito, che vedete bene come il debito viene percepito e interpretato all'interno del mondo culturale protestante e all'interno del mondo culturale cattolico. E nel mondo culturale protestante il debito si paga, individualmente sono responsabile della mia colpa e farò tutto quello che mi è possibile per pagare la mia colpa attraverso una restituzione nei confronti della comunità di ciò che sono in grado attraverso il mio lavoro di restituire. Questo comporta evidentemente un rigore ed una intolleranza che è estranea alle culture latine, che invece hanno, diciamo, l'espressione alla fine qualche santo aiuterà, che è un'espressione decisamente cattolica. I santi non esistono nel mondo protestante, la religione protestante non riconosce l'esistenza dei santi, mentre i cattolici danno una importanza estrema alla santeria, San Giuseppe, Sant'Antonio, Santa Caterina, adesso non faccio la lista perché ci prenderebbe molto tempo. Qualcuno crede che il cattolicesimo sia una religione monoteista, non è vero. Il cattolicesimo è una religione profondamente politeista come l'induismo. L'induismo è una religione che conosce l'esistenza di innumerevoli divinità, ogni luogo, ogni situazione della vita è legata ad una divinità che in qualche modo la rappresenta e che viene in aiuto o mette in difficoltà. Ecco, il cattolicesimo è molto simile ad una religione politeista, soprattutto il cattolicesimo sudamericano, perché quando la Chiesa cattolica colonizza, evangelizza il Sud America, dopo la scoperta dell'America, dopo il 1492, Colombo scopre l'America. Dopo, subito dopo, dalla Spagna e dall'Italia partono navi piene di mercanti che andavano a prendere queste ricchezze scoperte laggiù, piene di guerrieri naturalmente, perché bisogna sottomettere le popolazioni indigene del nuovo mondo, del continente indiano americano, e piene mercanti, guerrieri e preti che vanno a evangelizzare, cioè a portare il Vangelo, a convertire gli indigeni. Beh, processo di evangelizzazione si incontra con una realtà religiosa locale, perché gli indigeni messicani, cubani, peruviani, colombiani, brasiliani, dico delle parole che non corrispondono, naturalmente dovrei dire Guayaquil, Guayaní, Arawak e così via, dovrei nominare le popolazioni locali, ma ciascuna di queste popolazioni aveva una sua religione, un suo mondo mitologico, e la Chiesa scelse di essere tollerante nei confronti delle credenze religiose locali, nel senso che il Dio cristiano e i santi, la Madonna e tutta la santeria cristiana, doveva entrare poco alla volta nel mondo mitologico locale. Nasce quella che gli antropologi chiamano una religione, qual è la parola? Com'è una religione che nasce dalla commistione fra due... Ibrida. Ibrida. Ibrida, si potrebbe anche dire ibrida in effetti. Però c'è una parola precisa che è sincretica. Il sincretismo, syn in greco vuol dire insieme. E tutte le volte che vedete syn, sintesi, sintomo, sincretismo, vuol dire che c'è qualcosa che viene insieme a qualcos'altro. E cresis vuol dire mescolanza, quindi mescolare insieme, e la religione sincretica è una religione in cui per esempio i messicani nell'area centrale del Messico, nell'area azteca, si venerava, si adorava una figura locale, una divinità locale che naturalmente aveva una faccia di colore nero, del colore della pelle della popolazione, e ancora oggi a Città del Messico, nella chiesa principale di Città del Messico, si venera una Madonna che è la Madonna Nera, che è conosciuta come la Madonna Nera. E in molti luoghi messicani o a Cuba, ad esempio, per non parlare poi del Brasile, ancora oggi nelle chiese cattoliche troviamo delle figure di santi che sono la raffigurazione cattolica di divinità che appartenevano al culto precristiano di quella località. Ecco, insomma, per farla breve, nasce in tutto Sud America una religione che è cattolica ma con una forte impronta di tipo locale. Ma insomma, il punto, quello che mi interessava dire, è che il cattolicesimo è profondamente diverso dal protestantesimo dal punto di vista mitologico, religioso, ma anche dal punto di vista etico. E quindi la questione del debito viene affrontata in maniere assai diverse. Per farla finita su questa questione del debito, comunque io ritorno alla cosa che dicevo inizialmente. E noi possiamo parlare del debito in termini puramente economici, come si fa abitualmente nella attuale discussione, ma se vogliamo capire cosa sta a fondamento, cosa sta nei sotterranei vorrei dire dell'inconscio europeo, della cultura profonda europea, dobbiamo tenere conto del carattere linguistico del debito e del carattere immaginario che il debito porta con sé. Cioè dobbiamo, come fa Lazzarato, interpretare il debito come una forma della colpa, una colpevolezza originaria. E dobbiamo però, come fa David Graeber, interpretare il debito come una forma linguistica, come una promessa, come un atto di linguaggio che mette in moto naturalmente delle conseguenze che riguardano l'intera vita sociale, ma che rimane pur sempre nella sua origine profonda un atto propriamente linguistico. Non ho capito. Si potrebbe fare una pausa sono le 10. Sì, però riprendiamo molto rapidamente così per le 3 finiamo. Anche sì, pausa. 10 minuti.